Letture di Radio 24. Sono anni che da più parti si cerca di offrire ai cittadini una tutela contro l'invadenza, spesso aggressiva, dei call center. In Senato è in discussione un disegno di legge che prevede un'estensione del registro delle opposizioni, un servizio che teoricamente dovrebbe consentire al cittadino che vi si iscrive di non ricevere più telefonate commerciali o per ricerche di mercato, ma che spesso non viene rispettato. Parallelamente, l'Unione Nazionale Consumatori ha lanciato una sottoscrizione per dire basta al teleselling selvaggio, un'iniziativa che in pochi giorni ha superato le 10.000 firme. Ma anche dall'altra parte, quella delle aziende del settore che effettuano servizi di teleselling, c'è chi invoca il rispetto di regole precise. Come racconta Maurizio Carucci su Avvenire, dal 28 gennaio è entrato in vigore il codice di etica professionale per l'autodisciplina nelle attività di call center di AssoContact, l'associazione aderente a Confindustria, che rappresenta la maggior parte dei call center in Italia. Con il codice, scrive Carucci, si intende garantire che l'attività dei call center, quale espressione di una delle modalità di vendita di beni e servizi, venga realizzata come servizio per il pubblico nella tutela dei diritti dei consumatori. Vogliamo essere riconosciuti, spiega Roberto Boggio, presidente di AssoContact, come una vera industria che dà lavoro a 80.000 persone in tutta Italia e che per competere ha bisogno di regole certe e di un contatto unico per il settore dei call center in outsourcing. Con il codice etico sono state definite delle norme di deontologia professionale, con contatti telefonici effettuati in modo e orario ragionevole, regole di comportamento interne all'azienda e verso i fruitori di servizi, le istituzioni e la committenza. Le aziende, in questo modo, si impegnano a rispettare alcune significative responsabilità, che si traducono nel mantenere comportamenti etici volti a garantire la correttezza dell'attività commerciale e la sostenibilità economica della vendita diretta. In sostanza, è un insieme di buone regole che gli associati si impegnano a osservare, ma soprattutto è il tentativo di far rispettare la buona educazione. Telefonare in orari che tengano conto della vita privata delle persone, quindi né la mattina presto né la sera tardi e nemmeno la domenica e i giorni festivi. Non insistere richiamando più volte lo stesso numero. La nostra è una vera e propria campagna educativa a tutti i livelli, sottolinea Boggio. Vogliamo portare avanti una grande opera di miglioramento del comparto, ma sappiamo che esistono aziende e dipendenti maleducati. Da parte nostra possiamo soltanto espellere chi non si attiene al nostro codice etico, mentre le sanzioni sono demandate per competenza alle authority. In effetti, il mercato è diventato più difficile per chi rispetta le regole. In Italia operano 200 aziende strutturate, tra queste 20 sono le maggiori, ma anche un sottobosco costituito da circa 2.000 realtà artigianali, che spesso accettano dai committenti contratti irrisori e sfruttano i lavoratori pagandoli in nero. Il garante della privacy ha provato a porre limiti, ma i consumatori hanno continuato a essere disturbati. Fino all'anno scorso erano state aperte più di 10.000 istruttorie per abusi da parte di aziende di telemarketing. Boggio, tuttavia, è ottimista. Quel che ci preme è dipingere l'operatore non come un disturbatore, ma come un amico che ci può dare una mano a risolvere un problema o a far risparmiare, proponendoci un'offerta conveniente. E quello che avete ascoltato era l'articolo di Maurizio Carucci. Ci sono regole stringenti e rigorose. I call center alla prova del codice etico. Da Avvenire del 19 maggio. Quale sarà il futuro di Milano? E di Roma? E Torino? Napoli? Bologna? Fino al 29 maggio non perdere la programmazione speciale di Radio 24 per le elezioni amministrative. Reportage, interviste, inchieste e approfondimenti quotidiani dei nostri inviati per capire, confrontare, interrogarsi e scegliere chi guiderà le nostre città. Da Roma a Milano, passando per Torino, Bologna e Napoli, viaggia con noi verso le elezioni più discusse del 2016. Segui le amministrative di Radio 24. Dai valore al tuo voto. Letture di Radio 24. Approvata nel 1992, la legge 104 permette a chi ha dei parenti affetti da disabilità di usufruire fino a un massimo di 3 giorni al mese di permessi retribuiti per accudirli. È una legge che fa risparmiare molti soldi al sistema sanitario nazionale. Ma perché allora nelle imprese private ne usufruisce l'1,5% dei lavoratori, mentre nella scuola si arriva al 13%? Se lo domanda Francesco Cancellato in un articolo pubblicato nei giorni scorsi sulla rivista online L'Inchiesta. La risposta è mistero. Misteriose sono anche alcune differenze regionali e di categoria raccolte in un rapporto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca datato 2015 e diffuse dal sottosegretario all'istruzione Davide Faraone. Perché per i docenti di ruolo la percentuale supera il 10% mentre tra i precari è sotto il 5%? Perché in Sardegna beneficiano della 104 quasi 2 docenti su 10, il 18,27%, mentre in Piemonte solo l'8,26%? E perché tra il personale non docente questa percentuale sale esponenzialmente, arrivando al 26,3% dell'Umbria e al 24,8% del Lazio? Sono dati, questi, figli di un'attività di monitoraggio del Ministero iniziata a seguito di uno scandalo scoppiato a Menfi, in provincia di Agrigento, nel 2014. Accade che all'Istituto Santi Bivona 70 insegnanti su 170 risultano malati o beneficiari della legge 104. Oggi di quello scandalo se ne sta occupando la magistratura. In più però ci sono numerosi insegnanti pendolari in attesa di diventare di ruolo o di ottenere il trasferimento nella loro provincia di residenza. Questi insegnanti, a quanto dicono, si sono accorti di essere regolarmente superati in graduatoria da colleghi con un punteggio più basso del loro, ma che godevano dei benefici della legge 104. È credibile che un numero così elevato di docenti sia affetto da patologie invalidanti? Si chiedevano in un comunicato? Evidentemente no. Nel caso siciliano, tuttavia, c'è una prima possibile risposta a questa anomalia. Nelle graduatorie scolastiche, beneficiare della legge 104 è un titolo di merito. O meglio, a parità di punteggio, chi ne beneficia ha la precedenza sugli altri, sia nella scelta della scuola, sia nell'entrata in ruolo. Allo stesso modo, consente di evitare di perdere il posto e di essere trasferito. Il sospetto, insomma, è che tra le centinaia di migliaia di persone che hanno effettivamente bisogno di questa tutela, c'è chi la usa come rampino per scalare le graduatorie. Se ciò è possibile, lo è a causa di valutazioni che definire compiacenti è generoso. A decidere se una persona può beneficiare della legge 104 è infatti una commissione municipale di medici e psicologi che si riunisce presso le sedi territoriali delle aziende sanitarie locali. Teoricamente, tale beneficio dovrebbe spettare solamente ai disabili gravi, ai genitori di un figlio disabile e, in casi eccezionali, anche ai parenti di secondo o terzo grado di persone affette da disabilità molto gravi. L'eccezione, tuttavia, diventa molto spesso regola. Le testimonianze raccolte tra gli insegnanti interpellati da L'Inchiesta, che hanno richiesto l'anonimato, svelano una realtà fatta di abusi che, spiegano, per chi lavora nella scuola, è segreto di Pulcinella. Ad esempio, riescono a ottenere i benefici della legge 104 genitori di figli celiaci, patologia fastidiosa ma che di certo non è invalidante né necessita di assistenza domiciliare, così come nipoti di nonne che abitano a centinaia di chilometri di distanza e che, a meno di avere a disposizione il teletrasporto, non possono essere assistite. Alcuni raccontano di colleghi che sono riusciti a ottenere più di una 104, diventando, almeno in teoria, infermieri a tempo pieno. Di altri che riescono a farsela prolungare oltre i 2 anni previsti dalla legge, di altri ancora che, posizionando strategicamente i giorni di permesso, ad esempio negli ultimi 3 giorni del mese e nei primi 3 del mese successivo, usano il periodo di assistenza ai loro presunti invalidi per farsi una bella vacanza. La somma di tutti questi piccoli abusi genera grandi problemi alla scuola italiana. I dirigenti scolastici sono i primi a subirli. Per chiedere un permesso con la legge 104 non occorre far loro richiesta, ad esempio. E ancora, poiché non possono generare un costo per la scuola, tali permessi non possono essere messi a supplenza. In altre parole, sono ore scoperte, che si sommano a insegnanti selezionati, anche, in funzione dell'invalidità di un parente. Controlli retroattivi, nuovi criteri di assegnazione dei posti e una riforma delle commissioni che concedono di accedere ai benefici della legge 104. Questo, soprattutto, chiedevano i docenti di Agrigento. A distanza di un anno, il governo sta monitorando le anomalie nei dati e ha annunciato, ormai da mesi, una stretta sui furbetti della 104. Forse sarebbe utile qualcosa di più, anche per non farci andare di mezzo chi invece della legge 104 ha davvero bisogno e che, se il bubone si ingrossa, rischia di finire nel calderone senza meritarlo. E quello che avete ascoltato era l'articolo di Francesco Cancellato, I furbetti della 104, così gli insegnanti usano le invalidità dei parenti per avere una cattedra. pubblicato l'11 maggio sulla rivista online L'Inchiesta. Pagare le tasse è bello, aveva dichiarato Tommaso Padoa-Schioppa, ministro dell'economia nel governo Prodi. Frase ripresa qualche anno dopo dal ministro dell'interno Anna Maria Cancellieri. Molti dei nostri contributi, però, finiscono in opere pubbliche mai terminate, in pensioni ai falsi invalidi e vitalizi d'oro agli ex parlamentari. Sicuramente pagare le tasse è etico, commenta Susanna Tamaro in un lungo articolo pubblicato lo scorso lunedì sul Corriere della Sera. Ma in Italia non si può certo dire che sia bello. Ho 40 anni di contributi alle spalle e in questi 4 decenni ho avuto la straordinaria e rara fortuna di passare da una condizione di precaria nullatenenza ad un'altra di grande abbondanza. Forse proprio per questo sono in grado di fare alcune riflessioni su questo lato della nostra vita civile. Il mondo in cui sono cresciuta e l'inclinazione etica del mio animo mi portano ad essere una persona profondamente devota alla legalità. Chi era adulto negli anni Ottanta si ricorderà che ad un certo punto ci venne chiesta la tassa sul medico di famiglia. All'epoca sopravvivevo con lavori di totale precarietà e dunque quella cifra, 100.000 lire, era per me spaventosa, ma purtroppo per questo terribile istinto pavloviano di onestà corsi a pagarla. Dico purtroppo perché poco dopo la tassa venne cancellata, quasi nessuno infatti onorò l'ingiunzione, senza peraltro venir restituita ai pochi ingenui onesti che avevano obbedito. Cambio di anni e cambio di scena. Metà anni 90, guadagno cifre ingenti con Va dove ti porta il cuore. Pago, giustamente, ingentissime tasse, rifiutando di prendere le scorciatoie consentite allora dalla contraddittorietà e dalla compiacenza delle leggi, quali castelletti, scatole cinesi, fittizie residenze in paradisi fiscali. Comunque, il governo di quegli anni, un governo di sinistra, ha pensato che non fosse abbastanza. Era una vera vergogna poter guadagnare così tanto con la cultura, e così venne fatta una legge ad hoc sui bestseller, potevano chiamarla tranquillamente legge Tamaro, che mi costrinse ad un ulteriore gravosissimo esborso. Credo di essere stata l'unica persona a pagarla, anche perché dopo solo 6 mesi, per l'imbarazzo e la vergogna, la legge venne cancellata. Inutile dire che i soldi non mi sono stati restituiti. Pagare le tasse è bello? Perché sia bello ancora non c'è chiaro, mentre è abbastanza chiaro che per molte persone è ormai impossibile. Ed è anche chiaro che molte, moltissime altre non hanno neppure mai preso in considerazione di farlo. Siamo il 5° paese al mondo per pressione fiscale, con un'evasione che raggiunge il 38% delle imposte. Dunque il peso delle persone disoneste ricade sulle spalle di quelle oneste e il sistema persecutorio ci mette del suo, accanendosi sulle medesime inermi spalle. Lo stato debitorio di gran parte della popolazione ci trasforma in un paese inerte, depresso, vittima di una passività di sopravvivenza che certo non giova alla tanto vagheggiata ripresa. Pagare le tasse è bello? Abbiamo 700 scadenze all'anno, 3 per ogni giorno lavorativo. Saltare uno di questi appuntamenti può voler dire scivolare rapidamente nel mondo dei reietti e anche se si riesce miracolosamente a restare a galla, noi onesti avremo sempre il fiato dello Stato sul collo perché non riesce a credere alla nostra rettitudine e pur di trovare il dolo nascosto è pronto ad usare ogni mezzo. Dato che denunciare senza proporre soluzioni non fa altro che aumentare il livello di populismo, vorrei allora fare 3 proposte concrete. Per tentare di liberare il nostro paese dall'incantesimo dell'immobilità, la prima cosa sarebbe quella di concedere un'amnistia per le more esponenziali, rendendo così più realistica la restituzione del debito. La seconda sarebbe quella di trattare i contribuenti onesti con il rispetto che si deve alle persone adulte e civili, abbandonando modelli di coercizione poliziesca che troppe volte ricordano i grigi regimi dell'Est. La terza cosa, che probabilmente dovrebbe essere la prima, dovrebbe essere quella di fare un'opera di severissima pulizia su tutte le opacità all'interno degli apparati statali. Quelle opacità che ci relegano al 69° posto nelle classifiche internazionali sulla corruzione e ultimi in Europa. Perché la corruzione, oltre ad essere il nostro macigno fiscale, il suo costo è valutato intorno ai 60 miliardi di euro, è anche la causa dell'ormai totale sfiducia dei cittadini nei confronti dello Stato. È bello pagare le tasse? Dopo 40 anni di fedeltà integerrima al tributo, posso rispondere serenamente no. Sarebbe bello se le strade fossero dignitosamente asfaltate, se gli edifici scolastici dessero un'idea di decoro anziché di degrado, se i bambini giocassero in vere aree a loro dedicate invece che su altalene circondate da rifiuti, se non vedessi i pensionati rovistare nei cassonetti della spazzatura. Un giorno magari sarà bello pagarle, ma per il momento si tratta solo di un obbligo a cui è illegale e incivile sottrarsi. Resta il mio personale rammarico di aver gettato enormi somme guadagnate onestamente nel ventre ingordo di uno Stato che tutto divora e davvero poco è capace di offrire. Avete ascoltato alcuni passaggi dell'articolo di Susanna Tamaro, Pagare le tasse? È giusto e civile, ma in Italia non è bello. Dal Corriere della Sera del 16 maggio.